verde sono Shrek. Niente coca, solo Schweppes. Mi diverto solo se senza droga sono zen. Quasi zen, quasi senza tre fasi di esistenza. Estasi, assistenza. Ma faccio questo, non chiedo permesso. Da quando ne avevo 16 e mezzo. E scusi ma torno presto. Sarò puntuale soltanto all'ora del decesso. La vita sembra l'eccesso. Compro quello, compro questo. Tutto quanto è un compromesso. Sto tutto fatto in controsenso, bro. Bravo ragazzo, mai fatte minacce, mai fatte domande. Sono mai stato spaccone, un riccone del cazzo con lame. Guardavo le case dei ricchi, pensavo che bello. Magari è questione di tempo, poi potrò comprarmi un castello. Se faccio sta roba mi fa stare meglio. Avrei potuto anche fare di meglio. Avrei potuto dormire e non restare sveglio. Coi pazzi a fare il macello, ma senza questo nulla sarebbe successo. Sono un bravo ragazzo che fuma. Solo il verde mi porta fortuna. La mia pepa sa di marijuana. Ho una canna che è tipo un bazooka. Fra non esco da una settimana. La nebbia dentro la stanza. Questa è arrivata da Barza. Non pago manco le spese. Il mio contatto è pugliese. Fra dentro nebbia come a Cardiff. Lei che è dolce come un muffin. L'assaggio mille coi baffi. Sto ingrassando come Garfield. Miau. Esco in pigiama il fine settimana. Mi compro le paglie sti cazzi dell'outfit. Compriamo ancora coi saldi. Contiamo ancora i contanti. Nel cuore bacio anche graffi. Mo lascio parlare gli altri. Sfuggito a vari psicologi. Sto preso bene Scientology. Avevo perso la strada e l'ossigeno. Troppo stressato per essere libero. Mo fatto centro bro tipo poligono. Con lei e Mary Jane sono poligamo, yeah. Non me ne fotte più niente. Non me ne fotte di te. Fra non volevo il successo. Mi è solamente successo. Faccio sta roba mi fa stare meglio. Avrei potuto anche fare di meglio. Avrei potuto dormire e non restare sveglio. Coi pazzi a fare il macello. Ma senza questo nulla sarebbe successo. Sono un bravo ragazzo che fuma. Solo il verde mi porta fortuna. La mia pepa sa di marijuana. Che è tipo un bazooka. Fra non esco da una settimana. Sono un bravo ragazzo che fuma. Solo il verde mi porta fortuna. La mia pepa sa di marijuana.